Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Un benvenuto a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, quest'oggi insieme a te all'Adico andiamo a toccare una vicenda che può in questo caso capitare, quella di scivolare, magari mentre si fa la spesa. Credo che forse il pavimento del supermercato fosse bagnato ed è successo a una signora di una certa età. Vuoi raccontarci un po' meglio la storia? Sì Francesco, l'occasione della signora vuole essere non solo un episodio ma quello di dare delle avvertenze anche ai consumatori, perché troppe volte veniamo a sapere o ci vengono segnalati casi come questo appunto di una persona che è scivolata a un supermercato, a una coppa e si è fatta male, ma anche di situazioni, e colgo l'occasione per farlo, di persone che magari rimangono vittime non solo nei centri commerciali ma anche con le sue radici degli alberi, dei marciapiedi, sulle buche delle strade e comunque tutte situazioni in cui un responsabile ci deve essere sempre. Nel caso della signora, è una signora di 75-76 anni, che adesso non ricordo neanche il nome, che stava facendo la spesa, è scivolata dentro un supermercato, i soccorsi sono stati anche abbastanza blandi. Il giorno dopo che è andata a casa ha cominciato a lamentare tutta una serie di dolori alle spalle, al collo, alla schiena, si è recata su indicazione del medico al pronto soccorso, è venuta fuori una prognosi e appunto fortunatamente e ben consigliata ha pensato di rivolgersi all'Adico per fare questa segnalazione, di cui i nostri uffici hanno prontamente dato risposta ed ora si sono attivati per richiedere un equo risarcimento alla COP che almeno vada a rimborsare della persona di quelle che sono tutte le spese che in questa fase sta sostenendo tra terapie e massaggi e soprattutto anche della borsa, che magari in questo caso aveva una bella borsa che gli è stata completamente rovinata e ha dovuto buttare via. Ecco, immagino che tutti i centri commerciali, i supermercati siano anche assicurati in questo. Sì, i centri commerciali come scuole, come qualsiasi edifici sono assicurati. Nel caso della signora c'è da quantificare un danno insomma di poco più di 1.000 euro, perché sostanzialmente sono tutti i soldi delle cure che la signora sta sostenendo, quindi questo vuole anche far capire che non c'è un'intenzione a voler trovare un metodo per come dire fare soldi, ma solamente la signora chiede almeno i soldi che sta spendendo per curarsi. E questo deve essere anche un'indicazione che i consumatori devono avere quando appunto si capitano in queste situazioni, e sapere che a fronte di qualsiasi inconveniente che si può determinare ci deve essere sempre qualcuno che, nel caso anche come ha detto la signora, ma nel caso di una pubblica amministrazione o di un edificio, comunque se non è preventivamente bene segnalato ed impedito il transito, e nel caso per esempio pensiamo a una buca nel manto stradale, deve essere responsabile e provvedere quindi al risarcimento. Ecco, immaginiamo che capiti appunto di cadere da bicicletta per colpa di una buca per la strada. Cosa dovrebbe fare un cittadino? Ovviamente ti fai del male, magari si rovina anche la bicicletta. Certo, no, la domanda è chiara. Noi come Adico abbiamo avuto molti casi, ti dirò anche di persone che sono inciampate sulle radici degli alberi di marciapiede, o come persone che sono caduti per esempio come un paio di anni fa un ramo da un albero e ha sfondato il cruscotto dell'auto. E ogni strada è censita e catalogata, ci sono strade provinciali, strade regionali, strade statali. L'importante quando accade queste cose è rilevare il punto esatto di dove è accaduto l'inconveniente, provvedere subito con materiale fotografico o con testimoniante a cercare insomma, di trovare tutto quanto necessario a comprovare il fatto, provvedere poi a farsi un eventuale preventivo, documentare eventuali spese, dopodiché inoltrare la richiesta di risarcimento, comune, provincia, regione, caso specifico, tranquillamente avvalersi del supporto dell'Adico, che insomma per tutti i soci ricordiamo che l'assistenza è sempre gratuita anche per queste cose. Ecco, quindi la foto mi sembra la cosa che bisogna ricordare in particolar modo, tirar fuori il cellulare e scattare un paio di foto del il posto esatto, con magari anche qualcuno che può testimoniare l'accaduto. Quindi questa è la cosa più semplice, e poi appunto c'è il sito associazionedifesaconsumatori.it, che è il sito dell'Adico, al quale ci si può rivolgere per una mano. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, che è stato con noi anche oggi. L'appuntamento è rinnovato alla settimana prossima. Grazie a te Francesco, e un saluto sempre a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.